Cari fratelli e sorelle, dopo queste 3 settimane di pausa riprendiamo i nostri consueti incontri del mercoledì. Quest'oggi vorrei semplicemente riallacciarmi all'ultima catechesi che aveva come argomento la vita e gli scritti di San Basilio, vescovo dell'attuale Turchia in Asia Minore di quel tempo nel IV secolo. L'esistenza di questo grande santo e le sue opere sono ricche di spunti di riflessione e di insegnamenti validi anche per noi oggi. Anzitutto il richiamo al mistero di Dio, che resta il riferimento più significativo e vitale per l'uomo. Il Padre, così ha detto in una delle sue omelie, è il principio di tutto, e la causa dell'essere di ciò che esiste, la radice dei viventi, e soprattutto è il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Risalendo a Dio attraverso le creature, noi prendiamo coscienza della sua bontà e della sua saggezza. Il Figlio, così dice, è l'immagine della bontà del Padre, e sigillo di forma a lui uguale. Con la sua obbedienza e la sua passione, il Verbo incarnato ha realizzato la missione di Redentore dell'uomo. E finalmente parla ampiamente sullo Spirito Santo al quale ha dedicato un intero libro. Ci insegna che lo Spirito Santo anima la Chiesa, la riempie dei suoi doni, la rende santa. La luce splendida del mistero divino si riverbera sull'uomo, immagine di Dio, e ne innalza la dignità. Guardando a Cristo si capisce appieno la dignità dell'uomo. Basilio esclama così: uomo, renditi conto della tua grandezza, considerando il prezzo versato per te. Guarda il prezzo del tuo riscatto e comprendi la tua dignità. In particolare, il cristiano, vivendo in conformità al Vangelo, riconosce che gli uomini sono tutti fratelli tra di loro, che la vita è un'amministrazione dei beni ricevuti da Dio, per cui ognuno è responsabile di fronte agli altri. E chi è ricco deve essere, così scrive, come un esecutore degli ordini di Dio benefattore. Tutti, dice, dobbiamo aiutarci e cooperare come le membra di un corpo. E lui, nelle sue omelie, ha osato anche usare parole coraggiose e forti su questo punto, che infatti, secondo il comandamento di Dio, vuole amare il prossimo come se stesso, non deve possedere niente di più di quello che possiede il suo prossimo. In tempo di carestia e di calamità, con parole appassionate, il Santo Vescovo esortava i fedeli a non mostrarsi più crudeli delle bestie, appropriandosi di ciò che è comune e possedendo da solo ciò che è di tutti. Il pensiero profondo di Basilio appare bene in questa frase suggestiva: tutti i bisognosi guardano le nostre mani, come noi stessi guardiamo quelle di Dio quando siamo nel bisogno. Ben meritato è dunque l'elogio fatto da Gregorio di Nazianzo, che disse, dopo la morte di Basilio: Basilio ci persuase che noi, essendo uomini, non dobbiamo disprezzare gli uomini né oltraggiare Cristo, capo comune di tutti, con la nostra disumanità verso gli uomini. Piuttosto, nelle disgrazie degli altri, dobbiamo beneficare noi stessi e fare prestito a Dio della nostra misericordia, perché abbiamo bisogno di misericordia. parole molto attuali, vediamo come San Basilio è realmente uno dei padri della dottrina sociale della Chiesa. Basilio inoltre ci ricorda che per tenere vivo in noi l'amore verso Dio e verso gli uomini è necessaria l'Eucaristia, cibo adeguato per i battezzati, capace di alimentare le nuove energie derivanti dal battesimo. È motivo di immensa gioia poter partecipare all'Eucaristia, istituita, così dire, per custodire incessantemente il ricordo di colui che è morto e risorto per noi. L'Eucaristia, immenso dono di Dio, tutela in ciascuno di noi il ricordo del sigillo battesimale e consente di vivere in pienezza e fedeltà la grazia del battesimo. Per questo il Santo Vescovo raccomanda la comunione frequente, anche quotidiana, e scrive: comunicare anche ogni giorno, ricevendo il Santo Corpo e Sangue di Cristo, è cosa buona e utile, perché Egli stesso dice chiaramente: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna. Chi dunque dubiterà che comunicare continuamente alla vita non sia vivere in pienezza? L'Eucaristia, in una parola, ci è necessaria per accogliere in noi la vera vita, la vita eterna. Infine Basilio si interessò naturalmente di quella porzione eletta del popolo di Dio che sono i giovani, il futuro della società. A loro indirizzò un discorso sul modo di trarre profitto dalla cultura pagana del suo tempo. Con molto equilibrio e apertura, egli riconosce che nella letteratura pagana, classica, greca e latina, si trovano esempi della vita retta, delle virtù, e dice che questi esempi possono essere utili per il giovane cristiano alla ricerca della verità, del retto modo di vivere. Pertanto bisogna apprendere dai testi degli autori classici quanto è conveniente e conforme alla verità. Così, con atteggiamento critico e aperto, si tratta infatti di un vero e proprio discernimento. I giovani crescono così nella libertà. Con la celebre immagine delle api che colgono dai fiori solo ciò che serve per il miele, Basilio raccomanda così: come le api sanno trarre dai fiori il miele, a differenza degli altri animali che si limitano al godimento del profumo e del colore dei fiori, così anche da questi scritti si può ricavare qualche giovamento per lo spirito. Dobbiamo utilizzare quei libri, quella cultura, seguendo in tutto l'esempio delle api. Esse non vanno indistintamente su tutti i fiori e neppure cercano di portar via tutto da quelli sui quali si posano, ma ne traggono solo quanto serve alla lavorazione del miele e tralasciano il resto. E noi, se siamo saggi, prenderemo da quegli scritti quanto sia adatta a noi ed è conforme alla verità e lasceremo andare il resto. Basilio soprattutto raccomanda ai giovani di crescere nelle virtù, nel retto modo di vivere, e dice: mentre gli altri beni passano da questo a quello come nel gioco dei dadi, soltanto la virtù è un bene inalienabile e rimane durante la vita e dopo la morte. Cari fratelli e sorelle, mi sembra si può vedere che questo padre di un tempo lontano parla anche a noi, con noi, ci dice delle cose importanti. Primo, questa partecipazione attenta, critica e creativa nella cultura di oggi. poi la responsabilità sociale, e questo in un tempo nel quale, in un mondo globalizzato, anche i popoli geograficamente distanti sono il nostro prossimo realmente. L'amicizia con Cristo, il Dio col volto umano, e finalmente la conoscenza e la riconoscenza del Dio creatore, Padre di noi tutti. E solo aperti a questo Dio, Padre comune, possiamo creare un mondo giusto e un mondo fraterno. Grazie per l'attenzione.